Dai tempi di Giovanni il Battista, il regno dei cieli subisce violenza e sono i violenti che se ne impadroniscono. Io volevo declinare questa frase che di per sé è chiara, ma nello stesso tempo può sembrare un po' indigesta. È chiara perché Giovanni il Battista è stato un tipo deciso, abbiamo sentito. Ha pagato addirittura con la vita il suo dover parlare. Sei un adultero, hai rubato la moglie a tuo fratello, no? Quindi lui ha inaugurato una decisione nel parlare, però dire i violenti se ne impadroniscono ci dà un po' fastidio, giustamente. Allora io lo declinerei così. Dovremmo prendere da Giovanni Battista la decisione che io traduco in un'altra parola ancora, la perseveranza. Val più un uomo perseverante che un uomo forte, dice una massima. Perché l'uomo forte produce uno sforzo. Se non riesce, cede. Il perseverante magari avrà uno sforzo meno forte, meno potente, ma insiste. E poiché le storielle piacciono non solo ai bambini, ma anche agli adulti, per questo i grandi poeti hanno inventato le favole di Esopo, di La Fontaine, e Gesù ha inventato le parabole. C'era un grande uomo che combatteva per la liberazione del suo popolo dalla Scozia, ma non riusciva a imporsi contro gli avversari, anche se era veramente molto forte. E allora un giorno abbattuto si rifugia in una caverna per riposarsi e anche per lasciarsi un po' andare. E dopo che si è abituato al buio, comincia a vedere qualcosa e allora vede in un angolo la tela di un ragno che risplende un po' da qualche lucetta che entrava dalla caverna e vede un ragno che cerca di agganciare sopra un filo, va su e cade e allora recupera sul filo per cercare di stabilire l'altro punto d'appoggio e non ce la fa. Così per 3 o 4 volte, alla fine questo grande guerriero forte dice: ho capito, questo deve essere la mia strategia. Prova, riprova finché ce la fai. Amici, proviamo ad applicare questa perseveranza. A che cosa? Alla nostra esistenza, ma la nostra esistenza è ricca di tanti spunti. Io dico solo a una parte, alla preghiera. Noi siamo gente che magari presa da uno slancio, da una predica, da un incontro con una persona, da un avvenimento, da un esempio, magari si butta anche andare a messa anche in settimana, magari va a confessarsi, prende in mano i salmi, comincia a recitarli, prende anche il rosario. Poi fatalmente, la nostra umanità e il tentatore, non dobbiamo mai dimenticarlo, che vanno a braccetto, la nostra povera umanità e il tentatore ci scoraggiano e allora lasciamo perdere. Per questo i nostri padri intelligentissimi hanno inventato la regola. Un convento camminerà bene se avrà una regola. Un cristiano, se ha una regola di vita, riesce a resistere. Io vi suggerisco, provate a pensarci e poi parlatene col vostro confessore. Ma ce l'avete un confessore fisso? Io temo di no. abbiamo un medico fisso, una parrucchiera fissa, persino dei negozi fissi, ma un confessore fisso no. Quando ero a Milano ho conosciuto una mia parrocchiana che per farsi i capelli andava a Piacenza. C'aveva la macchina, c'aveva i soldi, è la mia parrucchiera. Noi abbiamo paura a pigliare la macchina e andare nell'altra parrocchia se nella nostra parrocchia non c'è la messa. Non si combina niente. Allora, con il vostro sacerdote, il vostro confessore fisso, ragionate, ditegli: io vorrei mettere giù questi 3, 4, 5 punti per una regola di vita, che non siano di più, non mettetene 10, se no non se ne fa nessuno. Ma ragionatene col vostro sacerdote. Potrà essere la confessione mensile, potrà essere una messa in settimana, per esempio al giovedì, pregare per i preti, per esempio. È la giornata sacerdotale il giovedì. Potrà essere il dire il Santo Rosario. Sì, ma arrivo la sera, non ce la faccio, sono stanca. Certo, dillo al mattino. Alzati un quarto d'ora prima, spegni la televisione mezz'ora prima, ti alzi un quarto d'ora prima e dormirai un quarto d'ora in più, perché hai guadagnato mezz'ora alla sera. E così, via, amici, vi sembra che sto banalizzando? Lo faccio apposta per tenere desta la vostra attenzione. Ma guardate che sto dicendo delle cose serissime. Perché la vostra vita ha già una regola. Voi massaie, se vivete in condominio, non vi mettete alle 11 di sera a far girare la lavatrice. Se no i vostri vicini si lamentano. Sai, in una villetta fai quello che vuoi, ma in condominio non ti devi permettere di fare. Se devi fare le pulizie della tua casa, non è che per prima cosa pulisci i vetri, perché poi butti per aria la polvere e si sporcano ancora. Lo sai che i vetri sono gli ultimi da pulire. Ma come fai a sapere queste cose? Io sono cresciuto con tre sorelle e un fratello in casa fino a 20 anni, e la mamma ci diceva: i vetri li fanno i maschi. Così, no? Cari amici, una regola. Il regno dei cieli vuole decisione, non violenza. Vuole perseveranza, e solo chi ha una regola riesce a essere perseverante.